ci incontriamo, ci oppressiamo. Tenebre tentatrici, oscurità felici. Fosco gentile, vergini venite, che vi fate schiavore, schiavore. Por su parte, por su parte, senza partirsi.